Libia, Haftar dice no, cessate il fuoco. Iran, aereo abbattuto, ipotesi più vicina. Taiwan, domani voto cruciale con un occhio a Hong Kong. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Results of the upcoming election could determine the fate of Taiwan and have a major impact on US-China relations. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16:07, 30 secondi in questo esatto istante. La squadra di Nessun Luogo vi porge i suoi saluti. Antonio Talia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani che è in console. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, è il numero per domande e commenti sui temi che toccheremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Potete commentare o porre domande anche naturalmente via social, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, infine Twitter, gli account sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. La puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano, l'ultima della settimana, prevede una ricognizione dei due dossier internazionali più scottanti al momento. Da un lato le tensioni USA e Iran con le ipotesi dell'abbattimento del Boeing ucraino che si fanno sempre più insistenti. Su tutti vi segnalo il pregevole lavoro che sta facendo il sito investigativo Bellingcat, che sta analizzando filmati, peraltro gira in rete un filmato che proverebbe e mostrerebbe un missile che colpisce con un boato, uno squarcio, una fiammata l'aereo mentre in fase di decollo. Dicevo, Bellingcat sta analizzando la quantità di immagini che stanno provenendo dal terreno per cercare di trovare una soluzione a quello che per il momento è ancora un mistero. E poi abbiamo il dossier libico, dove dopo l'appello di pace lanciato da Turchia e Russia, Serraj, ve ne davamo conto ieri, quindi Tripoli, governo riconosciuto dall'ONU, aveva dato l'ok, Haftar invece, forse non troppo inaspettatamente, ha detto no, in qualche modo sconfessa il consiglio dell'alleato informale Putin e punta a prima Misurata e poi evidentemente a Tripoli. Infine domani si vota a Taiwan, è un voto molto molto importante, la piccola isola, 23 milioni di abitanti, un formidabile laboratorio di democrazia, un tempo acerrimo terreno di scontro fra comunisti e nazionalisti cinesi, adesso si trova una prova elettorale in cui verrà rinominato, rieletto il presidente, il vicepresidente e il Parlamento, che però costituisce una cartina tornasole incredibile per le relazioni tra Cina e Hong Kong. Non è un caso che molti hongkongesi si siano recati a Taiwan proprio per seguire le elezioni. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Adesso, come sempre, la prima cosa da fare è misurare la temperatura. Il primo dossier che accarezziamo fugacemente in questo termometro internazionale arriva dal Mali, in particolare nord del Mali, perché ieri c'è stato un attacco missilistico contro una base delle Nazioni Unite, siamo nella regione settentrionale del Kidal, 20 persone rimaste ferite, tra cui 19 caschi blu dell'ONU. L'attacco per il momento non è stato ancora rivendicato. Come ha riportato Al Jazeera, l'inviato delle Nazioni Unite per la regione ha dichiarato al Consiglio di sicurezza che gli attacchi nell'intero Sahel sono aumentati di 5 volte dal 2016. E se ci seguite, chi ci segue sa benissimo quanta attenzione stiamo dedicando a quell'intera area del Sahel che comprende il Mali, il Burkina Faso e anche il Niger. Adesso vi faccio sentire la voce di uno dei portavoce della missione, l'ha raggiunto Ilaria Sesana, Olivier Salgado, lì dal terreno fa un brevissimo bilancio di quello che è accaduto. Ascoltiamo. Al momento abbiamo 19 peacekeepers feriti, 6 di questi in modo grave. Nell'attacco sono rimasti feriti anche 2 contractors delle forze locali. Sono stati feriti, ma ora stanno bene. Questa non è la prima volta che veniamo colpiti. Abbiamo avuto un gran numero di attacchi non solo in quest'area, in molte altre località del Mali, Timbuktu, Gao, la regione di Kidal. Abbiamo subito numerosi attacchi alle nostre basi e ai nostri convogli. Questo attacco è stato molto forte. La base è stata colpita da almeno 16 colpi di mortaio e razzi questa mattina attorno alle 6. È stato un attacco particolarmente forte. Questo è quello che è accaduto in Mali, che si inserisce in una lunga scia di sangue e di attacchi condotti da varie formazioni jihadiste e bande di criminali che imperversano, complice la porosità dei confini e complice un'instabilità generale che ormai governa quella regione da anni e anni, direi in maniera evidente dal 2011. Le cosiddette primavere arabe, che ricordavamo nelle scorse puntate, hanno scoperchiato arsenali di armi, quelle che una volta erano di Gheddafi, diffondendosi poi nella regione. Questa è stata anche una delle cause dell'inasprimento di violenza degli ultimi anni. A proposito di combattimenti, vi porto in Siria per un raid. Nelle ultime ore siamo nella regione orientale della Siria, al confine con l'Iraq. È stato compiuto un raid aereo. Purtroppo non sono in grado di dirvi di chi fossero i jet che hanno compiuto questo raid, perché al momento non è dato capirlo. Però l'obiettivo sì. L'obiettivo erano milizie sciite filo-iraniane. Sarebbero stati uccisi 8 militari delle milizie Hashd al-Shaabi. E l'area, quello che è interessante, come riporta l'agenzia ANSA, l'area oggetto dell'attacco non è molto distante da quella presa di mira nel raid americano del 29 dicembre, quello che poi ha scatenato la reazione iraniana e poi tutte le mosse e contromosse di cui vi abbiamo dato conto negli ultimi giorni. Infine, ultima notizia per il nostro termometro internazionale, arriva dal Kashmir. Ce ne siamo occupati parecchio a fine estate e nei primi giorni di settembre. Vi ricordate, territorio conteso tra India e Kashmir, vi è una parte amministrata dall'India e una parte amministrata dal Kashmir, territorio a maggioranza musulmana, che è stato sostanzialmente chiuso dai militari indiani con una serie di soprusi e di violenze più volte denunciate dagli attivisti kashmiri. Ebbene, è arrivata una pronuncia di natura legale, arriva dalla Corte Suprema indiana, l'equivalente della nostra Corte Costituzionale, che ha stabilito che la chiusura, l'abbattimento delle reti internet confligge con la Costituzione indiana. Vedremo se questo creerà una nuova tensione di poteri anche all'interno del governo indiano col premier Modi. Lo ricordiamo, come dire, se dovessimo piantare una bandierina per semplificare molto, molto il discorso, alfiere del nazionalismo indù, che ha mostrato una certa violenza nella gestione delle proteste in Kashmir. Vedremo appunto come e se vi saranno sviluppi anche dal punto di vista politico. Stanno già arrivando i primi messaggi al 349-238-6666, oscillano fra quello che è il tema, il secondo tema, Taiwan e altri, sull'aereo abbattuto. Me ne darò conto tra pochissimo. La prima cosa che dobbiamo fare è appunto parlare di quel tragico incidente, per il momento definiamolo così, aereo. Andiamo a Teheran. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers. I canadesi hanno domande e meritano delle risposte, così il premier canadese Justin Trudeau, che è stato uno dei primi, se volete, a guidare il blocco occidentale, che sta dicendo: attenzione, abbiamo prove, abbiamo evidenze che l'aereo è stato abbattuto, probabilmente per errore, da batterie di missili iraniane. La risposta iraniana non è tardata. In queste ore vi sono state varie smentite sia a livello politico che da parte dell'ente nazionale civile iraniano, lo avete sentito anche dal GR. Però c'è un'apertura da parte dei Teheran. Nelle ultime ore, vi ricordate, avevano negato la consegna della scatola nera alla Boeing, dicendo sotto traccia: ma come, noi non diamo la scatola nera al costruttore americano, il grande nemico. Poi avevano detto: non sappiamo esattamente a quale paese competa questa inchiesta. Adesso stanno aprendo a investigatori internazionali, persino statunitensi, per andare a verificare quello che è esattamente successo. Se scorrete, se fate un po' di ricerche in rete, ma anche le principali testate italiane ormai lo stanno diffondendo, c'è un video che mostra il momento dell'impatto tra il presunto missile e l'aereo. Naturalmente non è facile verificare. Se leggete, padroneggiate abbastanza bene l'inglese, vi consiglio di dare uno scorcio a bellingcat.com, che è un sito investigativo online con quelli che potremmo definire dei visual fact checker e non solo. Pensate, vi sono delle redazioni in New York Times su tutti che ha una persona dedicata che 24 ore al giorno dedica il proprio lavoro, il proprio impegno a verificare le immagini, a incrociare i dati partendo da latitudine e longitudine, lavorando su Google Maps, su fonti aperte, per andare a vedere se veramente quel video è il video del Boeing, se veramente quel missile che sembra un missile è realmente un missile. Per il momento Bellingcat non si scompone, non propende per, assolutamente per l'ipotesi della, in maniera univoca intendo, per l'ipotesi dell'abbattimento, ma sì, ci sono forti sospetti. Quanto a quei segnali che anche alcuni ascoltatori mi avevano appunto segnalato di fori sulla carlinga, sui resti della carlinga dell'aereo, ebbene, secondo gli esperti in realtà non sarebbero fori compatibili di per sé con un attacco missilistico, ma con la caduta di detriti. Ecco, questo è uno dei classici casi in cui, come dire, il complottismo in rete la fa da padrone, e ancora una volta, ma come abbiamo fatto appena uscita la notizia, è bene andarci coi piedi di piombo. Perché dico questo? Perché dal punto di vista della politica internazionale, se davvero fosse confermato che ci sono 176 morti a causa dei Teheran, beh, quella de-escalation che vi avevamo raccontato ieri a questo punto potrebbe davvero essere messa in discussione. Detto ciò, tra poco vi darò conto dei messaggi al 349-238-6666. Fatemi andare in diretta a Teheran con Viviana Mazza, Corriere della Sera. Viviana, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo e grazie mille per essere con noi. Buongiorno. Allora, Viviana Mazza, proprio nelle ultime ore tu hai spostato in qualche modo l'asse dell'attenzione facendo cosa? Sentendo uno dei delle guide dell'economia iraniana, Mohammad Nahavandian. Si occupa di affari economici, una solida e competente formazione all'estero, e avete anche chiacchierato di quello che è il dossier fondamentale. Noi qua l'abbiamo ribadito molte volte: da un lato le sanzioni, dall'altro il programma nucleare. Che sensazione hai tirato fuori da quell'incontro? In ultima istanza, qual è l'obiettivo finale dell'Iran secondo te in questa contesa, in questo braccio di ferro? La persona con cui ho parlato è il vicepresidente per gli affari economici Mohammad Nahavandian, sì, che era stato prima già diciamo molto vicino a Rouhani come capo dello staff. Abbiamo parlato del programma nucleare perché dopo che il presidente Trump ha detto non ci sarà un'escalation militare, una risposta militare, ha anche aumentato le sanzioni, e questo costituisce per Teheran comunque un rafforzamento di una guerra che è già in atto, che è quella economica, e dunque è naturale che l'Iran abbia, diciamo, adesso nel focus questo problema. La sua risposta, perché Trump il giorno dopo attraverso una lettera all'ONU ha detto noi vogliamo negoziare un accordo migliore, sì, con l'Iran, sì, è un accordo che comprenda non solo anche il programma dei missili balistici e altro. La risposta dell'Iran è stata: questo è assurdo. E il vicepresidente Nahavandian ha detto che si può tornare al tavolo, si può ritornare a discutere, e che l'Iran tornerà a, diciamo, rispettare i suoi impegni quando anche Trump rispetterà i suoi impegni, anche quando l'America ritornerà a farlo. E quindi non è una chiusura al dialogo sul programma nucleare dal suo punto di vista, ma significa semplicemente che è stata l'America a ritirarsi per prima, ed è l'America che deve rispettare gli impegni, mentre invece Trump vuole negoziare e trattare senza precondizioni. Le precondizioni di Teheran è che vengano rimosse le sanzioni. Allo stesso tempo però questo significa che, cioè, questa discussione indica che l'Iran non considera il programma, l'accordo sul nucleare morto, lettera morta. L'Iran vuole rimanere in realtà in questa intesa. La mia sensazione è che comunque è molto difficile che l'Iran tratti con Trump prima delle elezioni americane. Io ho la sensazione che voglia aspettare le elezioni di quest'anno, vedere che cosa succederà. Però se Trump dovesse essere rieletto, non lo so se veramente siamo disposti a trattare con Trump se non toglie le sanzioni. Però questa è una mia sensazione, diciamo, non è quello che loro dicono, aspettiamo però che sia Trump a muoversi per primo. Certo, ma è il nostro lavoro, è il tuo lavoro, Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera a Teheran, a volte fatto anche di sensazioni e di pelle, questo significa anche stare nei posti dove accadono le cose, e mi collego proprio a questo concetto per chiederti che aria tira Teheran in questo momento, passata, come dire, il dolore a cui si sono raccolti tantissimi iraniani, anche se è stata una certa polemica sulle cifre, in qualche modo è sembrato che fossero state dimenticate quelle proteste che avevano fatto tanti morti, 600 secondo alcune fonti, 1500 secondo altri. È bastata la morte di Soleimani per ricompattare la società iraniana, o, come ho detto da questi microfoni più volte nei giorni scorsi, alla fine la gente deve fare benzina nella macchina e bisogna andare a comprare il pane e le sanzioni sono quello che contano? Sì, ho la sensazione che i problemi economici torneranno al centro dell'attenzione della gente. Parlando con alcune famiglie ho proprio potuto constatare che cosa significhi. Il Teheran, tutto sommato, è il posto forse più ricco, anche economicamente avanzato, rispetto a tante altre aree del paese. E qui si sente il peso delle sanzioni, si sente sulla vita delle persone. Per esempio, una signora che ho incontrato ieri al bazar con le figlie me ne parlava. Lei è una persona, diciamo, una famiglia di classe media, ha due figlie che hanno studiato ingegneria, una lavora come parrucchiera, un'altra come segretaria, non riescono, stanno in grandi difficoltà perché, per esempio, per pagarsi l'affitto, che qua è diventato costosissimo, hanno dovuto vendere delle cose, hanno dovuto vendere per esempio l'oro che avevano in casa, quindi non sono, cioè erano al bazar, sì, e c'erano anche per comprarsi un vestito, uno ci ripensa, nella zona del bazar dove comprano gli oggetti per insomma della casa quando uno si sposa, sì, e in quella zona lì non c'è più nessuno, cioè pochissime persone che comprano, perché pochi, perché questo influisce, cioè le sanzioni influiscono sulla vita anche in queste piccole cose. Certo. Però devo dirvi che oggi in particolare l'attenzione si è invece spostata completamente sulla questione dell'aereo ucraino che è caduto, sì, perché sì, questa questione è diventata una questione anche molto politica. Le dichiarazioni canadesi che potrebbe essersi trattato di un missile terra-aria nelle ore successive alla ritorsione, alla rappresaglia insomma iraniana disposta all'uccisione di Soleimani, hanno chiaramente incontrato il diniego totale da parte delle autorità iraniane. Però proprio poco fa vedevo che gli iraniani, come raccontavate anche voi, hanno fatto delle aperture, sì, sulle inchieste, sulle indagini, sì, nel posto dove diciamo è caduto l'aereo. Non c'è più niente, non ci sono più detriti, non c'è più nulla, sono stati portati all'aeroporto di Mehrabad, però hanno invitato, vedevo, anche la National Transportation Safety Board, cioè l'agenzia investigativa che è americana, che si occupa, sì, di indagare su questo tipo di incidenti, a mandare un proprio rappresentante in Iran, che è una cosa abbastanza incredibile, sì, perché cioè, quindi non solo Boeing, ma anche un rappresentante americano, quindi in un momento di tensioni altissime tra i due paesi. C'è questa apertura molto molto evidente, insomma. Sì. Non so se succederà, non so come, se effettivamente poi parteciperà a un'inchiesta, però questo segnale è un segnale anche molto forte, ma va anche detto che se veramente dovesse essere stato un missile terra-aria, questo sarà un danno enorme per gli iraniani, perché, certo, immaginate già insomma come è stato colpito il paese, il suo turismo e tutto il resto. Quindi se veramente è stato un missile terra-aria, questo sarà un danno enorme per l'Iran. E questo non c'è dubbio, naturalmente dobbiamo aspettare ore, giorni, settimane, alcune inchieste sono durate anni, figuriamoci, per sapere la verità. Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera da Teheran, grazie infinite per il tuo contributo, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Questo è Nessun Luogo Lontano, la prima pagina tutta dedicata a quelli che sono gli sviluppi sul giallo, ancora dobbiamo definirlo così, del Boeing ucraino abbattuto poche ore dopo la pioggia di missili lanciata da Teheran verso il territorio iracheno, basi irachene con personale americano, poi preallertate, insomma la storia ormai la conoscete, una grande dimostrazione di forza, bersagli volutamente mancati come si è sussurrato da più parti, poi però c'è questo mistero, ripeto, del Boeing, vedremo se nelle prossime ore, nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli. Il risvolto politico è importantissimo, attenzione, Viviana Mazza lo ha ben sottolineato ancora una volta, l'apertura da parte di Teheran a ispettori statunitensi non è certo un fatto di poca rilevanza. Tra pochissimo andremo a Erbil, se la linea ci soccorre, vediamo, per andare a vedere qual è la situazione Erbil, lì dove sono caduti alcuni razzi, qual è la situazione dei soldati italiani. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano si viaggia parecchio, quindi allacciatevi le cinture, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Prima però fatemi aprire una piccola parentesi tutta libica. Prima di fare questo, però, andiamo sui messaggi degli ascoltatori, 349-238-6666. Molti vanno sul volo, forse abbattuto, credo l'aereo sia stato abbattuto involontariamente, dice Pierpaolo, perché sarebbe stato come darsi la zappa sui piedi per una controffensiva in un certo senso dovuta e tollerata. E fa bene Pierpaolo a usare questi aggettivi, come dire, dando corpo a quella che è la tesi ormai abbracciata un po' da tutti, il fatto che sia stata una reazione apparentemente muscolare ma allo stesso tempo molto ben misurata per dare spazio a trattative, a cercare non inasprimento delle sanzioni, ma che è arrivato comunque da Trump. Insomma, staremo a vedere. Ci sono dei messaggi su Libia, c'è Paride per esempio che dice si lascia andare ai ricordi, perché questo è interessante, in qualche modo un amarcord di una Libia che non esiste più, e ci racconta, scrive di Misurata, la bellezza di questa città. Adesso bisogna ricordare Misurata con la sua forte milizia e nel mirino del generale Haftar che sta avanzando verso ovest. Gli altri messaggi tra pochissimo. Dicevo, il dato politico fondamentale del dossier libico è questo, che il generale Haftar non vuole il cessate il fuoco. Allora, apparentemente ha dato uno schiaffo a Vladimir Putin, però Vladimir Putin bisogna capire quanto stia contando su quello scacchiere libico. A leggere un po' di analisi, prima su tutte per esempio quella di Arturo Varvelli, lui sottolinea molto spesso come la Russia pesi meno di altri attori, per esempio Emirati Arabi, per esempio Turchia dall'altra parte. Nel frattempo l'agenzia ANSA ci fa sapere che il ministro dell'interno del governo di accordo nazionale libico, Fatih Bashagha, tornerà a Roma lunedì in visita ufficiale. Quindi ancora una volta una delegazione parte da Tripoli per andare a Roma. Vedremo se riusciranno a ricomporre quello scivolone, quella gaffe diplomatica che è stata compiuta a Roma quando fu ricevuto prima Haftar, poi Sarraj doveva atterrare, non è atterrato, è tornato a Tripoli. Adesso vi dicevo, è il momento di andare a Erbil, lo facciamo con Jacopo Arbarello, inviato di Sky TG24. Ciao Jacopo, benvenuto qui a Nessun Luogo Lontano. Ciao, buonasera. Allora Jacopo, la prima domanda è quella di prassi: che aria tira Erbil alcuni giorni dopo quel muscolare attacco molto icastico, per così dire, ma che poi danni praticamente non ne ha fatti? Guarda, siamo andati a vedere oggi pomeriggio dove sono caduti i missili effettivamente lanciati dall'Iran, perché pensavamo fossero vicini alla base aerea, sì. Perché poi la base militare è compresa all'interno dell'aeroporto civile. In realtà sono arrivati a chilometri di distanza, più vicino mi pare a 5 chilometri, in piena campagna. Sì. Non si sa se per imperizia o perché proprio non si voleva colpire l'obiettivo. Sta di fatto che qua le misure di sicurezza di tutti i militari, sono 3.600 perché ci sono 13 nazioni rappresentate in questa coalizione, sì. I militari sono in stato di massima allerta, inavvicinabile il compound, tutte le attività sono sospese e si tratta essenzialmente di attività di addestramento dei soldati Peshmerga. Sì. Detto questo, abbiamo sentito adesso che c'erano degli elicotteri americani che sorvolavano, ma la città è molto tranquilla. Sì. Gli stessi iracheni sono venuti qua per Natale, per dire, perché il resto dell'Iraq è praticamente invivibile. Qua invece ci sono delle attività, come dire, ludico-ricreative. Sì, è quasi un oasi il Kurdistan iracheno, lo dobbiamo sottolineare, rispetto a Baghdad non c'è paragone. Ecco, è completamente diverso, anche a Mosul e a Kirkuk. Certo. Jacopo, so che hai tastato il polso anche dei guerriglieri Peshmerga, quelli che sono stati addestrati, che fino a qualche giorno fa erano addestrati dalla coalizione internazionale. Loro Ma sì, come... guarda, abbiamo parlato... No, sì, noi stavamo parlando, scusa se ti ho interrotto, stavamo parlando in piazza, abbiamo fermato un po' di persone, tutti più o meno... hanno minimizzato questo attacco dell'Iran, dicendo che peraltro noi curdi abbiamo ricevuto attacchi ben peggiori nella storia, a partire da Saddam Hussein, noi curdi. Detto questo, minimizzando l'attacco anche tendevano ad esaltare l'azione di Trump, perché Soleimani da queste parti non era visto troppo bene. Certo. E abbiamo incontrato dei militari che invece erano stati direttamente addestrati dagli italiani. Ci hanno detto: guarda, noi ci hanno insegnato a usare i fucili, sì, ci hanno insegnato a guidare i carri armati e i mezzi militari. Quindi per noi è fondamentale la presenza dei soldati stranieri, perché ci insegnano un sacco di cose e soprattutto ci hanno aiutato, non dimentichiamolo, a sconfiggere l'ISIS. E non è che non ci sia la possibilità che l'ISIS o una qualche sua rimodulazione torni. Assolutamente, hai fatto benissimo a sottolinearlo, Jacopo Barbarello. Molte fonti dal terreno, molti analisti gettano un allarme su questa possibilità. Si è interrotta in qualche modo quella che era la pulizia finale dei militanti ISIS, le operazioni sono bloccate, lo hai ricordato tu stesso, e insomma raccogliamo questo grido d'allarme lanciato dal territorio curdo per bocca, per voce. Il microfono di Jacopo Barbarello, Sky TG24, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata Jacopo e grazie, buon lavoro naturalmente. Allora, Roberta Fisani, facciamo una piccola pausa, che dici? Andiamo a sentire le borse come stanno reagendo a questa tumultuosa attualità internazionale e poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Sono arrivate. La performance è solo l'inizio. Goditi una nuova esperienza di guida. Lasciati avvolgere dall'eleganza dei nuovi interni. Conquistare dal nuovo infotainment con schermo multitouch. E stupire dai sistemi di guida autonoma di livello 2. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Scoprile nell'allestimento veloce Launch Edition. In tutte le concessionarie Alfa Romeo. Fino al 31 gennaio. Con Preatoni Nuda Proprietà, l'operatore specializzato nella compravendita di nuda proprietà immobiliare, puoi partecipare al suo modello di business sottoscrivendo quote di Preatoni Nuda Proprietà Crowdfunding sulla piattaforma MamaCrowd. Visita www.preatoninudaproprietà.it oppure www.mamacrowd.com per scoprire i dettagli. Con Preatoni Nuda Proprietà, la casa ha un nuovo valore. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. La seconda pagina di Nessun luogo è lontano adesso vi porta a Taiwan. Si viaggia tanto, ve l'avevo preannunciato, cari ascoltatrici e ascoltatori. Perché si va a Taiwan? Perché domani si vota per presidente, vicepresidente e Parlamento in un'isola relativamente piccola, di fronte alla Cina, siamo a poco più di 100 km di distanza, meta turistica per tanti cinesi, un voto importante che arriva a 4 anni dall'ultimo voto che aveva già consacrato il Partito Progressista e Democratico. Una Taiwan che è stato a partire dagli anni 90 fondamentalmente un grandissimo laboratorio di democrazia e di sperimentazione. Pensate che è l'unico paese in tutto l'est asiatico che consente il matrimonio, che rispetta le coppie LGBT, insomma rispetto ai vicini più ingombranti e più autoritari assolutamente non c'è paragone. Naturalmente la Cina rivendica questo territorio, è un territorio in realtà ufficialmente mai riconosciuto da nessuno, e la Cina rivendica il modello un paese due sistemi, lo stesso di Hong Kong. Non è un caso che tanti turisti vadano a Hong Kong, c'è un pezzo molto bello apparso sulla rivista Quartz, lo trovate anche online, che parla proprio di questo turismo elettorale. Il viaggio elettorale per gli hongkongesi costa circa $1,000 e si va nei siti principali dei partiti democratici per andare a monitorare le elezioni. Perché? Beh, perché fondamentalmente Taiwan, per chi vive a Hong Kong ed è democratico e progressista, è un grande miraggio. Significa che si può fare, il braccio di ferro con la Cina si può ancora sostenere. Da ciò capite l'importanza di queste elezioni. Ne parleremo tra pochissimo con Antonio Talia, che mi ha raggiunto qua in studio. Buongiorno Antonio, ben ritrovato qui da noi. Da buongiorno, questa parte del vetro. E a tutti gli ascoltatori. Allora, facciamo così. Andiamo a vedere spot elettorali. Vi propongo un grandissimo paradosso. Siamo in radio, ma accendiamo la televisione. Il primo. Se guardiamo agli ultimi 3 anni e mezzo, Taiwan sta affrontando una retrocessione sul piano economico. Le persone non hanno più fiducia. I giovani non credono nel futuro. Dobbiamo occuparci delle persone comuni. Se Han Kuo-yu vincerà, porterà stabilità a Taiwan, migliorerà la sicurezza e porterà prosperità. Questo è lo spot di quello che è sostanzialmente il Partito Comunista Taiwanese, l'avete sentito, la retorica di un certo tipo, o quantomeno filo Pechino. Filo Pechino, ecco, esatto. Mettiamola così. Antonio giustamente mi stava correggendo. Adesso vi faccio sentire invece l'altra parte, cioè il Partito Democratico e Progressista. È uno spot molto lunghi, abbiamo creato una sintesi in qualche modo. Questo spot è notevole perché fa un parallelo con Hong Kong. Intanto lo ascoltiamo. Quest'anno abbiamo capito che al di là delle nostre differenze, amiamo tutti la nostra vita tranquilla qui. E amiamo tutti questo paese libero e democratico. Antonio Italia, non abbiamo visto i due spot, abbiamo sentito però le due differenze di retorica. Da un lato i progressisti democratici, quelli che vogliono Taiwan indipendente, non vogliono la longa manus di Pechino, prima invece quelli che sono più filo Pechino, sarebbero un po' più disponibili a stringere i rapporti con Pechino stessa. Raccontaci un po' che cosa c'è in gioco con queste elezioni. Sì, allora... Taiwan è un po', qui a Nessuno Guarda Lontano parliamo spesso di termometro, ecco, Taiwan è un po' il termometro di quello che succede nel Mar Cinese Meridionale, perché è una ferita mai sanata in qualche modo per la Cina è una provincia ribelle che deve essere ricondotta alla madre patria prima o poi, eventualmente anche con le armi, e però contemporaneamente è un paese che, se di fatto non viene riconosciuto da tantissime altre nazioni, ha una sua indipendenza de facto. Questa indipendenza de facto derivano anche delle elezioni, sì. E quindi abbiamo da un lato il Kuomintang, che è il vecchio partito nazionalista, che però adesso è all'opposizione ed è pro Pechino, vuole in qualche modo riavvicinarsi alla Cina, e dall'altro lato appunto il Partito Democratico Progressista, che invece non ne vuole sapere di riavvicinarsi alla Cina. La presidentessa Tsai Ing-wen è l'attuale presidente appunto di Taiwan, ed è ha portato avanti una retorica sempre di più di contrapposizione nei confronti di Pechino, viene data per favorita. In qualche modo tutto quello che è successo a Hong Kong negli ultimi mesi ha spostato l'asse dell'opinione pubblica taiwanese, che già non vede di buonissimo occhio una completa assimilazione da parte di Pechino, ancora di più nei confronti di Tsai Ing-wen, che viene data come vincitrice. Sì. Ti interrompo, Antonio, perché le ultime amministrative, 2018, i democratici progressisti avevano preso una bella batosta, poi però sembra che anche dalle tue parole i fatti di Hong Kong in qualche modo abbiano dato linfa vitale e uno spostamento ulteriore, come se Taiwan, faccio una metafora un po' ardita, si fosse un po' spostata dalla costa cinese, no? Sì, decisamente, perché in qualche modo quello che sta succedendo a Hong Kong sta spingendo sempre più taiwanesi a sostenere la politica di Tsai Ing-wen, che è una politica di, come diciamo prima, di contrapposizione nei confronti di Pechino, e Han Kuo-yu che invece è il candidato del Kuomintang, per quanto sia un candidato molto effervescente, con una retorica molto diretta e che piace al pubblico, viene dato come perdente. Però potrebbe esserci una sorpresa in qualche modo, dato che non si vota solamente per il nuovo presidente, ma anche per il Parlamento. Il Parlamento di Taiwan ha 113 seggi. Se il Kuomintang, quindi il partito più filo Pechino, riuscisse comunque a ottenere un risultato migliore al Parlamento, potrebbe in qualche modo mettere in crisi le politiche anti-Pechino di Tsai Ing-wen. Sì, allora la posta in gioco è molto alta, evidentemente, è come se fosse un grande laboratorio di prove di forza tra Pechino e queste due entità satellite, con fatte salve le dovute differenze, evidentemente. Ecco, Pechino, ma anche Washington dall'altra parte, stanno in qualche modo cercando di influenzare, e con quali mezzi, la tornata elettorale? Assolutamente. Allora, da un lato abbiamo Washington, che negli anni ha mantenuto una politica molto ambigua, se vogliamo, nei confronti di Taiwan. Dal 79 Washington ha riconosciuto la Cina come unica Cina, e però contemporaneamente ha mantenuto dei rapporti informali con Taiwan, sostenendo comunque la sua appartenenza, per esempio, a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi con Taiwan bisogna mantenere dei rapporti anche per ragioni strategiche, sì, perché comunque l'isola è molto importante all'interno del complesso risico del Mar Cinese meridionale. Donald Trump però in qualche modo sta utilizzando Taiwan per dare fastidio a Pechino. E come? È il primo presidente dal 1979 che ha accettato una telefonata di congratulazioni per la sua vittoria da parte del presidente di Taiwan. Questo nel 2016. Poi nel 2018 che cosa ha fatto? Da un lato ha approvato una legge che si chiama Taiwan Travel Act, che aumenta gli scambi tra funzionari taiwanesi e funzionari americani, quindi dando ancora più importanza a Taiwan. E infine ha fornito, ha come dire, chiuso una fornitura militare di elicotteri Apache a Taiwan. Questo ovviamente ha fatto arrabbiare Pechino, che sostiene che insomma Washington e Donald Trump non rispetterebbero completamente la politica di un'unica Cina. E come sta intervenendo Pechino? E intanto ricordiamo che Xi Jinping, come anche i suoi predecessori, non esclude a parole un'opzione militare per infatti recuperare la sua ultima dichiarazione molto forte ha quasi trasformato queste tornate elettorali in un referendum, un sistema a due paesi, oppure volete andare per la vostra strada, ma attenzione, se andate per la vostra strada siete vicini o possono in un attimo riagguantarvi. Certo, ricordiamo che Taiwan è distante solo 160 km dalla costa cinese. E poi c'è uno scandalo in corso che vede degli agenti di influenza, un solito gioco di gioco di spie che avviene quando c'è la Cina e non solo in questo caso. Cioè questo presunto agente cinese Wan Licheng, che scappa, va in Australia, sostiene: io sono uno degli agenti incaricati di influenzare le elezioni taiwanesi e sono stato minacciato sì per questa mia defezione da agenti cinesi, ma anche da personaggi che stanno dentro il Kuomintang, quindi dentro il partito taiwanese filo Pechino. A quel punto chiede asilo politico, asilo politico. Ci sono stati di Taiwan si sta discutendo molto di questo. Ci si chiede: questo Wan Licheng è un millantatore o è davvero la persona che avrebbe dovuto in qualche modo influenzare le elezioni? Insomma, anche qui, ancora una volta, quando c'è di mezzo Pechino, insomma, a volte i mezzi sono sotterranei, ecco, per usare un eufemismo. Grazie mille Antonio Talia, naturalmente la risposta ce la daranno le urne. Nell'ultima parte, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, vi farò sentire le voci che ha raccolto lo stesso Antonio Talia, ci farà sentire le voci dei due partiti contendenti per capire che piega prenderà questa tornata elettorale. Per il momento, piccola pausa, Strade Italiane. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano di questo venerdì. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Un ascoltatore dice che non si è capito il discorso dei turni elettorali da $1,000, ma in che senso? Non turni elettorali, ma viaggi elettorali, come se fosse, ho detto, tour elettorali. Delle agenzie di viaggio organizzano e hanno organizzato in questi giorni dei veri e propri pacchetti viaggio con i quali €1,000, escluso il volo però, così riferisce il magazine online Quartz, vengono portati i turisti hongkongesi che vogliono toccare con mano cosa significa il regime democratico al quale essi stessi aspirano. E è interessante perché il pezzo di Quartz, che è molto carino, molto vivace come spesso capita, belle pennellate dalle penne di questi giornalisti americani, alla fine un'intervistata che preferisce rimanere anonima dice: ma sì, in effetti Taiwan è veramente vicina alla Cina, e non fa tanto riferimento a quei 163 chilometri, dice: alla fine la distanza è esattamente quella della scheda elettorale, quindi pochi centimetri. Adesso, come promesso, proviamo a entrare un po' meglio nei meandri dei palazzi del potere di Taiwan. Lo ribadisco, sembra un'elezione di poco conto, sembra un'elezione così lontana, ma in realtà è una grandissima prova dopo le elezioni locali di Hong Kong, in cui Pechino ha ricevuto un bello schiaffo da parte del Partito Democratico e Progressista. Adesso c'è una nuova tornata elettorale, una nuova cartina tornasole, o come diceva Antonio Talia, un nuovo termometro. Vi faccio sentire così la voce che arriva direttamente dal quartier generale del Partito Democratico Progressista a Taipei. Lei è Yiting Lien, dirigente dello staff della presidentessa in carica. Qual è la posizione del Partito Democratico sull'indipendenza dalla Cina e come giudicano la possibilità di una riunificazione? Lo stesso stile di Hong Kong sostanzialmente, quindi quel principio un paese, due sistemi. Sentite. For DPP, the most important thing is people's wealth. Vorrei fare un po' di precisazioni sulla posizione del Partito Democratico Progressista in merito all'indipendenza di Taiwan. Per il DPP la cosa più importante è il benessere della popolazione di Taiwan. Ora, Dobbiamo dire che come paese con una sua indipendenza de facto, Taiwan ha funzionato molto bene. Abbiamo il nostro governo, abbiamo il nostro Parlamento e tutte queste istituzioni sono espressione del voto del popolo. Per quanto riguarda le rivendicazioni avanzate da Pechino sulla sovranità di Taiwan, noi pensiamo che applicarle davvero sarebbe estremamente problematico, dato che, come ho già detto, noi siamo di fatto indipendenti. Taiwan continuerà a essere un partner molto affidabile per tutta la regione e vogliamo evitare qualsiasi mossa provocatoria. Ma deve essere molto chiaro che non intendiamo piegarci alle rivendicazioni di Pechino sulla nostra isola. D'altra parte, che cosa stanno dimostrando le proteste di Hong Kong al popolo di Taiwan? Ci stanno dimostrando che l'applicazione dell'idea un paese, due sistemi è un totale fallimento e che non c'è alcuna possibilità di coesistenza tra la democrazia e un regime autoritario. Quindi ritengo che la popolazione di Taiwan respingerà l'idea di un paese, due sistemi e che continueremo a salvaguardare il nostro sistema democratico. Questo è molto importante per noi. To safeguard our democratic way of life. That's very important for us. Avete sentito la voce di Yiting Lien, fa parte dello staff della presidente in carica Tsai Ing-wen, Partito Democratico Progressista, quella insomma che vuole reggere un po' il braccio di ferro con Pechino e nega assolutamente un sistema a due paesi, insomma Taiwan ha una sua indipendenza. Partiamo dai fondamentali economici, perché voglia essere indipendente se l'economia arranca. Come dovrebbe reagire l'economia di Taiwan di fronte a quel colosso ormai da anni che è Pechino? Sentite. So actually Taiwan's economic has been performing very great over the past four years. Beh, l'economia di Taiwan ha ottenuto dei risultati molto buoni negli ultimi quattro anni. Gli attori del settore manifatturiero taiwanese continuano a investire. E abbiamo anche molti investimenti diretti dall'estero. Questi risultati hanno consentito al nostro governo di operare un abbassamento delle tasse e un aumento dei salari minimi per le generazioni più giovani e per altri gruppi svantaggiati della società. Inoltre, il mercato azionario va bene. Quindi, anche se è vero che l'influenza cinese sta crescendo ovunque, non siamo molto preoccupati da questa pressione. Voglio ricordare che la Cina sta usando questa influenza economica per imporre la sua agenda politica in giro per il mondo. E noi crediamo che con queste premesse, mostrarsi troppo dipendenti dal mercato cinese non sia una strategia lungimirante nel medio periodo. Vogliamo continuare a intrattenere cooperazioni bilaterali con quelle nazioni che condividono la nostra stessa visione e sforzarci di sviluppare la nostra economia nel modo più sano possibile. Expanding our multilateral cooperation with all the like-minded countries and make efforts to develop Taiwan in a very healthy way. Queste le ambizioni e l'auspicio in qualche modo del Partito Democratico e Progressista di Taiwan. Lo ricordo, domani si vota per la carica di presidente, vicepresidente e rinnovo del Parlamento, 23 milioni di abitanti, appena 160 km di distanza da quella che è la mainland, la terraferma cinese, il colosso Pechino, che vorrebbe invece una annessione, l'ha sempre rivendicata. Qualche settimana fa, il presidente cinese Xi Jinping ha trasformato questa tornata elettorale in un vero e proprio referendum, minacciando o quantomeno alludendo anche un uso della forza per riunificare la Cina. Andiamo dall'altra parte, come è ovvio fare in questi casi, andiamo da quel partito una volta nazionalista e adesso filo Pechino, sempre Antonio Tali ha raggiunto dal quartier generale del Kuomintang Steve Chung, che è dirigente dello staff del candidato sfidante, che è Han Kuo-yu. Voi siete l'opposizione, gli ha chiesto, quali sono i principali errori commessi dunque dalla corrente amministrazione? We think the Taiwan administration just blocked Taiwan. Pensiamo che l'amministrazione della presidentessa Tsai abbia rallentato Taiwan e abbia tagliato alcuni dei più importanti legami con l'estero, soprattutto sul fronte dei rapporti commerciali. Pensiamo sia necessario invertire questa tendenza, migliorare il corso delle relazioni per affrontare il mondo con maggiore facilità. Riuscire a costruire una relazione più stretta con la Cina non significa per forza doverne subire l'influenza. Ma al momento la presidentessa Tsai ha scelto invece di agire in maniera provocatoria nei confronti della Cina. Con il governo Tsai abbiamo subito molte pressioni, non necessarie dal resto del mondo, mentre invece, quando noi eravamo al governo, avevamo dimostrato di poter migliorare la partecipazione di Taiwan alla governance globale, mantenendo relazioni diplomatiche formali con molti paesi. Quindi, guardando al passato, penso che mantenere buone relazioni con la Cina sia il modo migliore che Taiwan ha per guardare al resto del mondo. Quando è stata eletta 4 anni fa, la presidentessa Tsai aveva promesso di mantenere lo status quo, ma ha dimostrato di non poterlo fare. E questo si è visto più di una volta negli ultimi 4 anni. Noi vogliamo un governo più leggero, una sorta di deregulation. Questo è il motivo per cui pensiamo che non ci sia modo di migliorare la nostra situazione economica, perché non possiamo far diventare Taiwan una free trade area. Noi non vogliamo obbligare le persone a trasferirsi in Cina, vogliamo che il governo si muova in maniera più intelligente e pensiamo che le persone abbiano il diritto di fare scelte per proprio conto e che il governo non debba imporre troppe regole. L'amministrazione del Partito Democratico Progressista sta dicendo alle persone cosa possono e non possono fare. Noi invece pensiamo che il governo non debba avere questo tipo di potere. Noi non stiamo dicendo ai taiwanesi se devono o non devono andare in Cina. Possono prendere le loro decisioni. Questa è la differenza tra la politica del KMT e quella del governo. E così vi abbiamo fatto sentire anche l'altra campana, la voce del Kuomintang, la voce era di Steve Chung in particolare, che fa parte dello staff del candidato presidente, quello che sta sfidando la presidentessa attualmente in carica. Insomma, una campagna elettorale tutta giocata su valutazioni profondamente economiche, ma sullo sfondo c'è lo spettro di Hong Kong, proteste che potrebbero accendersi e quelle relazioni privilegiate con Pechino. Siamo quasi in chiusura, chiudiamo questa pagina, malvolissimo, fatemi riaprire quella che riguarda Iraq, Iran e tensioni con gli Stati Uniti, mentre c'è in corso una conferenza stampa, sto guardando da Washington, c'è Mike Pompeo che parla, la BBC lancia una breaking, sanzionati 8 iraniani coinvolti con il lancio di missili, quindi continua il pugno duro dell'amministrazione statunitense, mentre nel frattempo, giusto un'ora fa, il premier iracheno, dimissionario ricordiamolo, Adel Abdel Mahdi, ha nuovamente detto agli americani: attenzione, perché il Parlamento qua in Iraq ha votato affinché voi ve ne andiate, quindi io darò corpo a questa decisione, e ha chiesto al Pentagono di mandare i suoi per discuterne. Quindi situazione ancora in super evoluzione, ultimissimo tassello, anche qua attenzione, perché Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha detto che non ha motivi di dubitare delle fonti di intelligence occidentali che dicono che l'aereo è stato abbattuto da un missile. Insomma, ho come la sensazione che questo non sarà certamente un tranquillo weekend. È quello che però io vi auguro, ma intanto vi do un ordine. I titoli di coda con i quali ringrazio voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domani ore 10 col meglio di Nessun Luogo e poi lunedì ancora una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.